riesco a regolarmi. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non lo so, ditemi voi, se va bene la lascio stare così, se no la abbasso. Ma non è male, cra. Ma solita modulazione o c'è qualche differenza, qualche problema? No, per me è leggermente più con toni alti, non è la classica tua che usi, che rimbomba proprio, si sente proprio corposa, dai. Questa è leggermente più con i toni medi. Leggermente con i toni medi, non lo so, aspetta un attimo, vediamo così invece. Non è quello, non lo so. Questa c'hai. Questa è quella, un'altra grande digitale, mia mano, ma metto qui dove sono i filtri, filtri, mamma mia, c'è un casino questo. Questa c'è un casino di roba, non mi metto più nulla, vabbè. Sta amplificando anche perché si sentono già i rumori di fondo, adesso un ventole, cosa si sente? E quindi si è amplificata, cazzo, senti la ventola già è già amplificata. Sto usando l'MB più 5. Adesso si sentono. Cos'hai detto? L'MB più 5 stai utilizzando. Secondo te l'MB più 5 cioè? L'MB 60 è. Chiaro. Ma come mai la sento diversa? Perché è un'altra radio, questa è il K digitale. Questa è il K digitale, però non mi ricordo che filtro c'è. Boh, se c'è il filtro stretto, filtro largo, boh, non me ne ammetto. Ecco perché la sentivo così strana. Strana cosa vuol dire strana? Che non sei tu. Non sono io di modulazione. Tu sei Giamba. Cambia qualche regolazione, ma no, non penso ci siano problemi. Out, proce 60. Mettiamo a manetta. Mettiamo a 100%. 100%. Adesso mettiamo il Mickey Game. 100%. Mettiamo anche il Mickey Game. 100%. Rimettiamo il processore. Togliamo il Mickey Game. Ha cambiato qualcosa? Sempre uguale? No, per me è sempre uguale. Ripeto, non c'ha la spinta che c'ha con l'altra radio, che è proprio corposa la radio. Qua è una radio più da salotto, dai. Caffa, così è. La potenza quanto ce l'hai? La potenza è 25 watt. Basta un po', puoi aumentare? No, una M va 25 watt e digitale. E con l'altra ne vai più forte? Io arrivo più forte con l'altra, non capito. Voi volete sempre roba da combattimento, ok? Va bene. Ah, non è male questa, però l'altra è il top. No, l'altra spinge di più sia di radio che di segnale. Vabbè, si può utilizzare lo stesso, non è che. Ma no, infatti gli ho detto la radio è 5, tranquilla. È diversa e basta. Sicuramente ogni radio ha la sua. I suoi toni, non lo so, più di tanto poi non puoi regolare, invece l'altra proprio esce spinta già. Cappa, sicuramente. Va bene, sto bene. Sto bene. Sempre lavoro, ma dove vai Fede? Cappa, aspetta che ti chiedo una cosa a Sara, un attimino. Quindi già con l'attacco del microfono si sente che rimbomba già. Via, Lucio, non ci avete questa modulazione, non so più testare, cazzo, per carità, quindi questa ti piace di più? No, non è più piace, mi piace anche l'altra, soltanto che sono diverse, questa è la tua classica che usi sempre, l'altra è più normale, più... Anzi, in certi versi a me piace anche l'altra, più l'altra, è più limpida, più chiara, qua senti proprio il rimbombo. Qua è migliore. Senti la voce grossa. Non so come spiegato, dai. È diversa, è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa, sì, è un'altra. Questo è il 430, non ce n'è per nessuno, nonostante segnale è un bel forte, no? No, no, adesso è uguale, però altre volte ti ho visto più forte. Uguale di segnale, se possibile, cioè da questo passaggio con la potenza alta a questo passaggio è uguale. No, adesso sei seduto di brutto, però ti ho visto con segnali più alti da dove sei adesso, vabbè, se aumenti la potenza è chiaro che così c'entra a fare. Va bene, va bene. KK di Rogero. Ah, sta rinfrescando la chirurgia, meno male che di notte sta rinfrescando. Lì da te sarà ancora meglio. Già sei venuto qua, già sembra ci sia condizionatore dentro. Bisogna tenere la maglietta, se no è un casino. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senti come sale la radio, senti. No, no, questo vedi, è un'altra cosa, Ascolta, quindi questo passaggio così come, aspetta che abbasso veramente leggermente la radio perché sennò è troppo forte. Questo passaggio com'è il segnale fra? Qua è basso perché questo Smith non segna nulla, qui segna uno, ma aggiungi almeno 3 o 4 Santiago. No vabbè, lascialo uno, da Santiago 1, sollevando la potenza qua del 430, guarda che da così a così, cosa è cambiato? Beh, aumenta sia di radio, il segnale si è salito a 4,5, da 4,5, 4,7. Quindi da segnale 1 vai a quasi 5. No, già va bene la potenza, già l'ho regolata bene. Sì, di modulazione arrivi a 5, di modulazione di picco. Di modulazione? Va bene, va bene. Ottimo per la truppa. I picchi sono positivi e di conseguenza aumentando il segnale aumenta anche la radio. Beh sì, se aumenti la radio, aumenta anche il segnale, ma che motore non c'è in questo pezzo di cosa. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo amplificando, è un bel alta la radio, già va bene. Guarda se è alta, è forte. Ora, sono segnali di... Siete qua, Hola, chicos! Ehi, hola, chico. Vediamo se sono io adesso. Ti va bene così? Gappa, gappa. Mi sentite, Ehi, ma non mi hai detto se sono io però adesso. Se ho il segnale, se c'ho il radio, com'è? Buono, buono, Sono io adesso. Ma sei col capo o col baracchino? Ma dietro a dire il baracchino? Capo, no, sto facendo riscaldare un po' quella cosa. Ehi, via, sempre facendo riscaldare, sai tu. Attacca il capo e dammi un segnale come cristiani, tu detto baracchino. Vabbè, anche questo lo devo usare, capo. Ehi, vabbè. E cosa vuoi che ti dica? 5 minuti poi lo rimetto com'era. Dai, tu aumenti, io diminuisco invece. Vabbè, tu ce l'hai attaccato, lui deve diminuire, sì. Lui è attaccato a te. Anche io facevo così quando attaccavo Antonello, dovevo per forza diminuire. Quindi fra segnale va bene e la radio ottima, va bene, la mia solita radio. Sì, sì, no, non mi sono spiegato. Lui aumenta di potenza, io invece ho diminuito, ho detto. No, vi ascolto bene tutti e due, sì, non ho problemi. Ehi, capo di alloggio, andare. Sono 4, dai, 4 watt. Picchi sono positivi. Ehi, avanti. Sì, ciao Franco. No, sto facendo male. Mi dite come sto scendo di radio? Sto provando un microfono. Ho detto che è un po' bassina, forse stai parlando da lontano Gianfranco, e poi sicuramente già usiamo potenze basse, dai. Sì, sto perdendo tantissimo, vedo che sto perdendo tantissimo. E sono appena a mezzo parte. Forse ho sbagliato antenna, però. Ok, riprendo dopo. Questa, la stazione sono basse. Oh, che strano. Non è buono in potenza. Invece dai Antonio, fuori in potenza, dici tu. Ma che bello cazzo va! Antonio è un terrorista, ogni tanto queste cose vanno a chiedere, se no ci rovinano. Capa, adesso faccio un altro paio di passaggi e poi basta. Anche io l'ho acceso un po' e poi adesso l'ho... Sono ritornato a 4, dai, 4 watt. Capa, tu tutto da ginciugato, no? Adesso sei 30 abbondanti. È andata. Ma non vedo di fare così le prove, tu sei troppo attaccato, mi hai aggiunto 1000 volti, cosa c'è quando arrivi 30 a lui? Le prove di fare fuori, richiede i controlli fuori, le differenze di farle fuori. C'è di sciare, devo attaccare dall'altro 30, anche a me mi arriva 40, Roberto, ma non fa testo, capito? No, vabbè, l'ho detto così, scherzando. E ha rimesso quando arrivi dalla riera e non c'avevo nulla attaccato, c'avevo solo con quello là e basta. Non è quello il problema, arrivo anche lontano. E solo che adesso lo volevo un pochettino utilizzare perché era diversi giorni fermo, capito? Poi dopo spengo tutto e ritorno con quello là. Brutta mazza, chitti in varia. Claudio, io arrivo 9.60. Quando trasmetto mi ricevo. Guarda, tu sei leggermente più alto di Antonio, nonostante che lui sia attaccato. Queste sono prove, queste sono prove. E sei anche più lontano di Antonio, perché Antonio non arriva a 9.20, invece tu sei 9.20 pieno, però lui è attaccato, tu stai usando quanti watt? Poco fa ero senza corrente, sta andando a batteria. Adesso è esattamente 1.8 watt. Un watt punto quasi 2, dai, mancano due tacchette per avere 2 watt, se poi posso aumentare. Sicuramente sei già a 9 più 20, cioè queste sono prove che si fanno, non è che uno può fare le prove con quello che ci ha attaccato sotto casa, no, le prove si fanno così. Fare con lui anche le prove adesso, tu c'è un watt e mezzo, tu quanti watt vai? 150, e arriva più forte di te. Ma veramente più favorevole a te, molto più favorevole, però magari in un'altra zona devo molto più forte io. Dipende dov'è, dipende, io non so. Sicuramente c'è il varco aperto per lui. Arrivo molto più forte io, magari con molto meno fatte. Capito? No, non ti ho capito, Antonio, non ti scivo. Apertura di cosa c'ho? Io ti ho detto che Sassari non lo vedo. Tu non sai dove sono, io Sassari non lo vedo. Io Gianfranco non lo vedo, non vedo neanche a te. Quindi ti sto dando un controllo reale. Non vi vedo né a te e né a lui, capito? A prescindere dove sono io, ma io non vi vedo a voi. Gianfranco arriva, adesso arriva più forte di te. Capito? Arriva più forte di te. Avanti Franco, riprendi. Ma in via a carburanti non ce n'era per nessuno. E dipende dove io vado più su quella zona là, vado. E non vado, io non so che zona è, ma non ci vado nelle zone diverse. Perché ho degli ostacoli, io. Tanto vai, chiudiamo il discorso, te l'ho spiegato mille volte, Gloria Carmati non c'era per nessuno, Carmati arriva lo stesso signore che hai qua, né più né meno, ma Gloria non c'era per nessuno. Gianfranco arrivava molto più forte a Carmati di te, non è che perché lo vedevo, capito? Ma vabbè dai, non fa niente, se tu pensi di fare queste prove così, non si fanno queste prove così anche. Prove si fanno a lunga distanza, si fanno con persone che non hai vicino, perché altrimenti è inutile, capito? Avanti, fra. Ehi, dunque, Gianfranco, hai recuperato un po' di segnale e un po' di radio anche, Gianfranco. Sì, io adesso ho messo 5 watt praticamente, da meno di 2 che erano. Non so se si noti, in teoria non si dovrebbe neanche notare quasi. Amato 930, Amato di Baia. 7, quasi 930, sì. Sei partito la prima volta che hai chiesto il controllo di Santiago 3. Poi hai sistemato, non so, l'antenna e sei arrivato a 7. Adesso ti ho detto dove sei arrivato, figurati. Se vuoi, guarda, io ce l'ho anche quello a fare come c'è l'Antonio, però non lo posso collegare a questa antenna perché su un'altra antenna. Se attacco quello allora cosa succede? 960 e non ne dà neanche molti, siamo sulla potenza autorizzata per noi. Vabbè, questo non ci arriva a 960, è uno smitter di baracchino, quindi prendila con le tutte cautele. Però adesso è un bel segnale, caspita. Schiacci tutto il QRM, voce in un silenzio di tomba, ci sente solo la modulazione. Adesso c'è anche da me 930, c'è fortissimo, c'è. Adesso vado su quello là e te lo do più precisamente il segnale. C'è un bel forte qua, Poi se mai tu che vedi la chiesa del, come ti si dice, di Arugrio, che arriva in forte, no? La chiesa che c'è qua, io non credo che arrivi fortissimo. Vabbè, ma io vedo se per quello, se Claudio saliva nel terrazzo, dove era prima, accendeva la torcia e lo vedevo tranquillamente, io vedo, figurati, il semaforo che lampeggia che c'era sotto casa. Se va anche nella piazzola di coso di Osi, dove accende un faro, abbiamo fatto il confittuio, figurati. Vedo che lo riconosco subito, ce l'ho in vista ottica. Lo stesso se va dove c'è il ripetitore di Signori, linea ottica totale, quindi non è questione, ma non, le potenze non servono, è la gente che non ne comprende nulla di radio, non serve a niente, servono per le bande basse, ma qua cosa ti ne fai? Sono solo i buttati. Fai il sacro cuore, lo vedi? Sacro cuore, sì. Quindi, vabbè, non la mia antenna non la vedi perché basta, solo in teoria, se dovessi metterla sul tetto vedresti la mia antenna. Ecco, sono ritornato normale. Ma io non è che lo utilizzo per fare chissà che cosa, io lo utilizzo qualche volta per accenderlo, per tenerlo sempre efficiente, capito? Non è che lo... Poi quando c'è la propaganda, allora lì la differenza la fai come? Infatti la fai come, ma proprio la fai. Guarda, ieri ero con Natalino, cioè fosse un Natalino o Claudio, adesso non me lo ricordo, però facendo un discorso eccetera, e c'erano questi chiamandoci, alla fine ci siamo dovuti anche spostare, perché ci stanno perseguitando, quindi cosa significa? La potenza, proprio con la propagazione, non è che, ripeto, conta molto in bande basse, ma a bande basse si intendono i 160 metri, gli 80 metri, già in 70 metri ci sono stazioni e si fanno sentire. È il modo in cui metti l'antenna è quella che comanda, non c'è nulla da fare. Poi puoi attaccare tutto quello che vuoi, ma se c'è uno che ha l'antenna piazzata bene, con dei cavi a bassissima perdita, non c'è speranza. Rec? Avanti. Buonasera, posso richiedere un Santiago Radio, grazie. Capa, qua sei 910 e Radio 5. Ti sento abbastanza bene. Chi sei, cosa? La sorella di Antonello? Sì, esatto. Buonasera. Buonasera anche a te. Avanti, Ofra. Sì, qua il segnale 1, la radio è 4, è buona. Ti ringrazio. Avanti, Gianfra. No, 9.15 Radio 5. Santiago 9, Radio 5, ogni tanto prenditi una Coca-Cola. Ciao tesoro. Ciao Gio. Ciao Gio, un bacione. Sì, tutto bene, ricambio al 1000 per due. Qualcosa ha toccato? Sei tornato a risegnare, è quel porco tuo fratello vivo. Sì, ecco come. Ma con te, però colpo in testa, ammattalo subito, così non ne parliamo più. No, che cosa mi serve? Cosa ammazzo? No, conviene ad esserlo ancora ben presto ancora un po'. Avanti, già fa riprendere. Sì, quindi comunque Claudio mi confermi che io adesso ho abbassato di nuovo, perché non mi piace. Con 4 watt, perché mi rompo. da preparare. Ti volevo dire, calma, io lo devo dire, non è possibile. Ti devo dire una cosa, ecco, ci sono arrivato. E tu mi hai detto che andavi spesso al mare, a Platamona, dove c'è il Lido, credo che si chiama, una cosa del genere. Io? Sì. Al mare a Platamona? Ecco, noi c'eravamo a casa quando ero produttore, sì. C'eravamo a casa mamma lì a Platamona, poi non era un po' di butto. No, no, in tempi recenti, dicevo. Niente, volevo sapere, siccome ti dice anche una pizzeria, per intenderci dove si ferma il tram, lì di fronte c'è una pizzeria, volevo sapere se era buona o se era di chi si dà crediti. No, oggi è buona. Io Antonio più pratico di Platamona. Che pizzeria è Antonio? E dov'è che l'hanno aperta la Giappone? No, c'era tanto, è quella del Lido, capito? Dove c'è la fermata del tram? C'è lo stabilimento balneare, c'è anche questa pizzeria, dove sto leggendo il prezzo. E comunque per notizia ne hanno, finalmente ne hanno buttato giù su tavola porcheria, dove c'era, adesso non mi, dove tanti secoli fa cantavano, per intenderci. Ma lì dove dire? Sì, sì, non esiste più. Non l'ho visto, so che stavano demolendo tutto, sarebbe anche ora. Allora, tu stai dicendo, la pizzeria praticamente è lo stesso dello Speed Date, il proprietario, quindi sicuramente si mangia bene. E poi ci dovrebbe essere anche il pescatore, però è al pettine successivo, cioè sia il secondo, se non ricordo male. Sì, anche lì si mangia bene, paghi un po' qualcosina, però la qualità... la paghi, quindi uno anche se paga qualcosa di più mangia bene, ci sta. Ah, assolutamente, sul mangiare guai a risparmiare, guai, non si risparmia. Va bene, grazie per l'informazione, così perché sono li ho visti e quando mi capita ci faccio un salto per una pista o anche per pranzo. Si chiama, aspetta, il cognome è Pisidu, il padrone, è quel ragazzo, sembra un ragazzo ma è grande anche lui, che ha lo Speed Date, addirittura ha preso anche l'anno scorso, 2 anni fa, quella che c'è scendendo prima dello stagno, andando diciamo da Ottava verso Platamona, c'è una sala dove facciamo ricevimenti per matrimoni, adesso si chiama Mesa e Oro mi sembra. Anche quella ce l'aveva lui in gestione, non so se l'ha rinnovato. Ok. Vabbè, a me interessavano questi due. Il pescatore lo conosco da tanti anni, ci andavo da quando c'è praticamente. Però non sapevo, sai, a volte cambia gestione, rovina tutto quanto. Basta un pizzaiolo con un altro che si vede subito la differenza, purtroppo. Avanti Claudio. Niente. Comunque c'è caldo e luce. No, io caldo non nappo, sto benissimo, alla grande. E questo comunque ci ho attaccato il microfono da tavolo sull'apparecchietto quello l'anno, che tolgo, metto. Un po' tattile praticamente. Ah, un po' tattile, va bene allora. KK, quanti ne avete fatto? Sono qua! Sta attaccando l'altro lineare. No, l'ho attaccato così per farlo andare un po', ma non è che l'ho dratto, sennò cacchiduno non che mi chiude. Mio figlio stava già lamentando, mi stavo entrando nelle casse del computer. Scappa, no, io lo uso così qualche volta, ma non è che quando c'è propagazione lo uso per, che siccome ti si pone uno sopra l'altro, allora per darmi un pochettino lo sral, cioè, così c'è, per difendermi lo uso per quello, ma non è, qualche volta l'accendo così, ma non è che lo uso per chissà che cosa, sennò io modo sempre con quello normale, tipo questo così, addirittura uso anche il bacchino piccolo, non è che spingo molto, mi hai capito? Io lo uso perché per compensare diciamo l'altezza dell'antenna, che non è tutto. scappa. Ma io lo uso ogni tanto così, lo uso, ma non è che lo uso spesso. Dici no, in occhi, che anche tu non dai gente che mi picchia. Arriva la bulletta della Ruzzi, io. Hai inteso, non so di quanto aumenta, 30% in più, ho capito bene. Oh, dai, io vado a cenare, ci sentiamo ragazzi, ciao ciao. Ciao carissimo, un abbraccio a tutti, buona cena, buona carica. Grazie mille, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Claudio, buona cena, alla prossima. Ciao Gianfranco, alle prossime mie, ciao ciao a tutti. Ciao tesoro. Ciao Giovanni, un abbraccio grande, salutami Antonello. Va bene, gli ho anche baciato la parte sua. Ehi, dai, allora. Va bene, ciao. Ciao Giovanni, ciao. Ciao. Casa, io non la sento più, e da quando è successo qualcosa, si è sganciata da qualche attrezzo, non la sento più. E chi? A Giovanna? Sì, io la sento benissimo. Quindi prima arrivava un segnale di 1, adesso poco 0. Mi senti? No. Ha detto mi senti, no? Io la sento benissimo a Giovanna. La mia antenna perde un sacco, perde. E tu Giovanna lo senti a coso? A Franco? Sì, te lo sento. Lei ha detto che ti sente e forse, forse per farti sentire la attacca amplificatore un po'. No, non ne ho, il mio amplifica solo il segnale in uscita, in recensione non amplifica. No, Giovanna. Ah, deve attaccare lì? Sì, qualcosa ce l'aveva agganciato perché è successo qualcosa, mi è sparita proprio. Come sei sparita? Perché lui, praticamente, ti spiego, lui l'antenna non ce l'ha sul tetto come noi, ce l'ha un pochettino nascosta. E quindi lui non riesce a sentire tutti i segnali, capito? Ma guarda, io non è che l'antenna sul tetto, c'è un terrazzino chiuso. Lo so che c'è un terrazzino, anche lui ce l'ha in un terrazzino dietro un po' creazioni precarie. È logico che non gli arrivi tu. A noi non ci siamo problemi perché io ce l'ho sul tetto, mi arrivi bene, capito? Ho attaccato qualche trucchetto anche io, l'ho messo con un tetto a fianco, ma senza te. Scappa, io ce l'ho, adesso si è abbassata, da me arrivavi 9.10, facevi, adesso sei Santiago 8, nemmeno. C'è una bella differenza, eh. Allora, a me mi arrivi Santiago 6 e la 10.5 è buona. Santiago 6 ti arrivo. Sì, esatto, la 10.5 è buona. Ha un grido via. Pensa tu quanto perdi. Non ho capito, scusa, c'è un bambino 10. Se vai a casa Antonello arrivo 9.25 arrivo. Perché arrivo molto molto più forte. Vabbè, a casa Antonello c'è la madama che non va bene. C'è la madama. Scusate, io devo scappare. Ciao Franco, ciao Antonio. Ciao a tutti gli altri anche. Scappo di corsa. Ciao! Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto, ciao ciao. Scappa, ciao ciao Gianfranco, ci sentiamo, buon tutto. Ciao Gianfranco. Ciao ciao a tutti. Scappa. Ci vuole, come si dice? Purtroppo quando le antenne sono così hanno difficoltà, hanno. Quando sul tetto che è libera va tutto bene, va. Quello sì, perché sul tetto prende anche bene, funziona anche bene, però vabbè. Però adesso è sul terrazzino che va bene lo stesso, per quelle volte che entro. Capa. No, ma già va bene, già arrivi lo stesso, non c'è problema. A me però perlomeno io non ho difficoltà a copiarti. Ho solamente 100 watt e basta. Cosa? Ho solo 100 watt e basta. Capa. No, io ne ho la metà di te. Ne ho. Se voglio ne ho neanche il doppio, ne ho. Se voglio. Poco fa già ce li avevo veramente, molto di più di quel di 100. Ma qualche volta così, perché tanto arrivo un po' dappertutto. Allora, tu vuoi un rispetto comunque, no? Cosa? Vuoi un rispetto? Già vado già. Io già un po' forte. Scappa. Franco! Sì, ma prima quando io la sentivo, cosa stava usando? Lineare? Sicuramente stavo usando il lineare. Non lo può più attaccare. ma cosa hai detto? Se eri sotto ti sentito un puntino. Ha detto se puoi attaccare l'amplificatore per farti sentire da Franco. Io sono sempre attaccata comunque, perché se no io senza lui non sento a me. Dice che è sempre attaccata. No, no, prima la sentivo bene, la radio 4, anche se il segnale da 1. A te che c'è il tecnico che controlla. Dice che succede di potenza. Aspetta che rianima tutto quanto adesso. Non lo so. Se anche da te è scesa da 9, è scesa quante mezza? Sì, 7, vuol dire che qualcosa ha toccato. Cappa, qualcosa ha toccato, sì. Qualche pezzone, a muovere un po' qualche cavo d'antenna. Non lo so, no. C'è anche Antonello con lei? Sicuramente c'è. Antonello c'è. Non lo so, no. Mi sentono più. Tu, travagliato vai, io già un gaggio. Stamattina ero a... Vabbè, dopo il tempio, Sant'Antonio di Gallura. In chi mi ti stai mandando? Ci sono oggi il secondo giorno, ci sono anche domani, ci sono anche sabato, poi credo di no, ci andrà altra gente dopo. Ci hanno arrivato i gozzi. Oggi ho visto il treno, quello dei non verde che chiamano, e poi il collegamento con il Bovo al Battello, lì alla riga dell'Iscia. Si fermano, scendono dal treno, salgono sul battello, vanno alla sponda opposta e vanno a visitare quegli alberi di ulivo non secolari, millenari, hanno roba di 3.000 anni mi pare. Sì, vai tu. Ma tu cosa fai lì alla ferrovia? Non mi ricordo più. Noi stavamo controllando delle donne lì che sono un po' in disarmo. Ah, e quindi una controllatina ogni tanto ci vuole. Scappa. Ma i vecchi treni a vapore per uso turistico li usano più? No, no, erano un po' pericolosi perché lanciavano pezzi di carbone acceso, andava a innescare incendi e cose varie. Quindi adesso mettono o un locomotore diesel elettrico oppure a volte escono con quelle littorine vecchie. Invece al locomotore gli attaccano la carrozza o la Bauchiero, che sarebbe la carrozza del re Vittorio Emanuele, oppure carrozza normale. Ho capito. No, perché so che in certi posti d'Italia li usano ancora per uso turistico. Franco? Franco, mica ti sta chiamando. Mandalo avanti. Ti senti adesso? Ho sentito, mi senti adesso, però non come la prima volta. Il primo passaggio che hai fatto ti sentivo veramente bene, anche che se il segnale era basso, però la radio era forte. Però riesci a sentirmi un pochettino? Non ho capito. Riesci a sentirmi? Tu riesci a sentirla? No, purtroppo qualche parola... Però ripeto, il primo passaggio che ha fatto appena entrata, la sentivo benissimo, quindi bisogna trovare quella posizione di prima, non so, la stessi usando, boh. Mannaggia, tutta buona la prima, a te. Adesso sei scelto di brutto, Qualcosa è successo, perché all'inizio questa era una bomba, specialmente in radio, la sentivo benissimo, cioè non avevo nessun problema a capirla. Franco! Ho sentito Franco, però non ci siamo ancora. Ma da me vai quasi bene. Cioè, vai bene, diciamo. Cioè, ma quella antenna ti ci sta spostando? Cosa? Detto, quella antenna lì c'ha degli spostamenti, non è fissata bene bene. Esatto, ha degli spostamenti, si può spostare un pochettino, organizzare un pochino meglio. All'interno di un terrazzino chiuso con noi, capito? Capa, per quello io non ho problemi, ma Franco, siccome è un pochettino in questioni precarie, non riesce a sentirti. C'è un'ambulanza in Kiwi. No, è proprio entrata qua dietro. Quindi sicuramente qualcuno che è qua in zona. Capo, mi aggancino. Avanti Giovanna, sta dicendo qualcosa. No, sto dicendo un'ambulanza. Viaggio da Giovanni Passi in Santonello, quindi sì. Posso immaginare che zona tranquilla che hai. È lì. Tipo, quella zona via dalle Sicilie, lì. Ma non è, come rispondi se lascio tutto in sua uguale? Poco da burotto, vade. Se non c'hai i doppi vetri qua, guai, finestre grosse. Magari c'è tutto aperto, a rinfrescare un po'. È a Franco diminuito di potenza, l'ho sentito poco e niente. Ma che è a Franco? Esatto. Cosa ha detto? Ha detto che è diminuito di potenza. Ha detto che è sempre uguale, sempre 4 watt. Posso, aspetta che aggancia, dai. Cappa, 4 watt dice che c'ha sempre. Adesso? Guarda se è migliorato un po'. Adesso sì, ma... Però mio figlio mi ha già chiamato, lo sto già disturbando. Adesso è stato grave. Non ho capito, cosa hai detto tu? Ha detto che adesso gli hai fatto Santiago 9, mi pare. Però devo abbassare. Mamma mia! Capo, però devi ammazzare perché sennò il figlio si prega nei gruppi di oro perché c'è che li entra nelle casse. È lontano, da me sarà almeno 10-15 metri. Però l'antenna diciamo è la parte opposta della camera sua, però entra. Sono quella cassa di gomma che non si vede a nulla. Perché se io lo faccio col mio Bose qua non entra manco per idea. Sono le casse del computer, sono quelle. Cosa sono? Non mi ricordo che marca sia. Caso di cucciso. L'unico che si lamenta è lui, perché non disturba né il televisore né nulla. Solo lui si lamenta. Hai avuto, aveva pigliato i gas dai cinesi. No, già sono di marca, però entra, non so perché. Perché non servono a niente, non sono filtrate. Non sono schermate, vuol dire. Se io ti accendo il Bose, qua non fa niente. No, non è che a me, lo tiro di casa, mi sento della GBL, sono americane. L'impianto è tutto della Technics. Va benissimo, non entra nessuno a parte. GBL non me lo ricordo se è americana. Forse sì, non me lo ricordo. Sì, sono americane. Queste sono fatte proprio in America. Ce li ho, 40 anni, viaggio, 40-50 anni. Sono ancora lì. Già sono buone, dai. Sono buone GBL, hanno fatto anche impianti importanti hanno fatto. Sì, poi guarda, già a minimo senti questi bassi belli morbidi profondi. Ha dei woofer grandi, sono da 35 credo siano i woofer. Poi sono morbidissimi. Infatti ogni tanto devi cambiargli il neoprene, quella gomma, no? Perché ogni tanto si marciscono, perché sono proprio molto sensibili. Ma non male che prendono il kit da cambiare. Già lo so già. Anche io ho un impianto importante. Me l'avevi detto. Invece avevo un paio di casse, quelle Pioneer che sono da battaglia. Qui chi sono sembrati che ce ne mai? Caffa, io ho queste qua, le alto di caccia, ma sono roba professionale. Ehi caffa, dai, rilancia tu Giovanna che se non si annoia. Caffa, avanti Giovanna. Tu non fermarmi, te lo vedi che non fa niente. Lo sai che mare. Questo qua è il posto, funziona. Sono casi amplificati o c'è il finale? Il mini Bose lo conosce. Ecco, come quella che c'è i satelliti piccolini da appendere. No, che è tutto un pezzo. No, non lo conosco. Come si chiama? Bose mini? Mini Bose, è quello che c'è da cellulare. Ah, ho capito, no, pensavo un impianto, no, io quello ce l'ho, sempre dalla GBL ce l'ho, quello da portare al mare, da ricaricabile. Capo, no, questo è chi ci sono adesso, ma ce l'ho già 5-6 anni ce l'ho, ma sono chi ci sono nei vecchi, chi ci sono una bomba, so. Ah no, sono bene, sì, no, li ho sentiti, sia i Bose che i GBL, sono ottimi. prodotti? Sì, tu vale. Siamo avanti? Vale. Ho sentito tipo polacco, russo. Come le notti magiche. Una canzone, eh. Quale? Quella di Orietta Berti? No, a parte quella dell'Italia. No, mia moglie ascolta sempre quella di Orietta Berti con quei due ragazzi. Ce l'hai scaricata da qualche parte o la stai ascoltando da internet? Da YouTube. Quindi in diretta la stai ascoltando, da? Questa è quella di piace a tua moglie. Cos'è, Anto? Questa è quella di piace a tua moglie. Diciamo che è sempre stata un pochettino avanti coi tempi, dai. Sì, l'hanno invitata lì a Pietro, ma voi siete giovani, invece vedi, vedrai, sarà un successone. E tu non hai mai visto quello con Rovazzi? Quale? Quello dove esce Albano anche cantando. Faccio quello che voglio, faccio tanto. Mi ricorda qualcosa, però non ce l'ho presente. Mettila a vedere, la trovi? Mildi Gemi. DJ Pedirella. Allora, musicista. Ciao. Mimi, Giovanni è rientrato. Buonasera ragazzi, buonasera. Ciao Giovi. Buonasera. Ciao Giova. Ciao. E beh Giova, come stai? Bene. Bene. Meglio così. Dove sei? A casa. Ma sta bassa, sì. Anche tu. Ma colpa tua, che non c'è l'antenna. Dillo a tuo fratello che metti tu l'antenna. Io sono lì, tanto dentro, lo stesso. È vero. Weekend oggi. Weekend oggi, mangia oggi. Mi sembra già fagliare. Se tu compri dolci, speaking dolci, me lo mangio dolci. Ah, vai pure dai. Ma sai, me l'ha riconosciuto Giovanna. Scappa, ragazza. Mi hai riconosciuto Giovanna, sì. Bella. Cosa? Buona la prima. Allora, vabbè, mi conosci, ci mancherebbe. Dai, chiudo un attimino, io ho fatto una mezz'oretta, ho fatto la foto da Pini, però mi chiudo. Ora sono autocopiato, cos'è tanto? Cosa? Cosa ha detto lui? Giovanna, cosa ha detto? Non l'ho copiata. Capo, avanti Giovanna. Se ci sento bene, però non mi sento bene. Perché lo stavo soprammodorando chi ci... Bupucci. Capito? Che si mangia cazzofa, mi? Appunto, visto che si mangia cazzofa che la stavo soprammodorando. Chi ci tedeschi, mi? Ma mi va di cazzofa che... Così mi chiacchiata di questa cosa, mi? E mi va di passare la gana, chi ci? Ma se che andate a cuviccio, altro che no, poi lo che vuoi, ma io lo so, dentro forte, un bel dentro poi. non tanto quanto le vicinanze di qua, ma la propagazione, rompere le palle un becco la cosa lì. A chi ci fate il rumbo, ci fate il segnale? Alle caviglie, vedi? Io la sentivo all'inizio, segnale di 1 radio 4, poi ha toccato qualcosa, è scesa quasi a zero e è sparita anche del radio. Eia. Poi sono andato a fare la dentista a farmi le otturazioni, la pianta mi ha addormentato tutto al mento. Anche chi su bella musica del dentista, mamma mia. Dove sei andato? In zona? No, lì in via Carlo Felice, mamma mia, mi ha martoriato. Ma poi l'anestesia è fastidiosa, cioè volavo di sotto, è morto, cioè proprio non lo sentivo. Vabbè, l'anestesia. Avanti da tu. Ma bravo, è che tu dottore o mezzo baciore. No, è bravo, è una clinica, non è un piccolo pallino, no. Tu vai lì, ti siedi, tutto lucido, pulito alla perfezione, no. È che purtroppo è un casino. Ti ha fatto la pulizia, mi ha levato, facevo un po' di tartaro. Quella almeno una volta all'anno viene a farla. Adesso mi devo otturare altri due denti, perché gli altri me li ha già fatti, e poi ne ho da fare ancora. Sarà se mi fa un dente, lo devo otturare. E ho giusto, di buon guà che tappo in plastica e lo tura giù io. Se vuole do il numero di questo qua, poi se lo fa fare, sono bravi. Allora me li ha fatti, guarda, sono un bici. Adesso, prossimo mese magari, ma si va e si fa, ogni tanto devi fare queste bustine romantesse, perché gli fa male il dente. Sai cos'è? Se il dente gli fa male vuol dire che sta andando peggiorando, sta cariando, capito? Tu molto maniaca troppa. Come sempre chi tu mi ha dato? Questo è chi su altro? Ma te tu bravo, cazzo, un dentista pare così, io pensavo che era un gioco. Domani. Io vado da, come si chiama? Pierluigi De Lugo, fantastico. Già lo sa, poi lo zoggo tutti i commenti quanto ci vuole un bel soldo, ci vuole. Già ne guadagna il bocco di naghi, ci va a tralli, cazzo. Ma poi sono a voi, vanno di ville e tu sei 30, al massimo che sei 30 una casa popolare, la massa che ne è varia. Una polizia di ti mettiamo, sono 100 euro almeno. Se ti bastano, secondo me manca 120. Guarda, De Lugo è abbastanza onesto, la verità. Iniziamo l'anno scorso 100 euro. È che dovevi mettere la parecchia, ma non la giugano, cazzo. Allora, devo tenere l'ombediani, non ho più voglia. Ah, io penso, tra panoramica, che non si vedeva granché. Poi ho fatto l'attacco, sempre da loro, 150 euro mi va, 160 euro. No, lui ti manda da Urigo perché non ha quel macchinario, capito? Sì, vai, lui ti dice cosa devi fare, la fai da esterno e poi porti tutto a lui. D'accordo? Ma lui ha fatto l'attacco, prima ha fatto la panoramica, ripeto, non si vedeva granché. Si è voluta l'attacco. E da lì si vede tutto. Penso intorno ai 150 euro buoni. Farlo dentro 30, va. Io ho sovraffollamento, ho troppi denti. C'è gente che gliene mancano, io ne aggiungo troppo invece. Se metto la parecchia dovrei toglierne almeno 4. È quello che mi rompe le balle, mi toglie i miei denti sani per cercare un po' di svoltire un po' la rosa. Vabbè, mancano purtroppo. La sto rimediando. Ah sì, anche mia moglie ne ha messo uno di quelli fissi proprio col perno. Sai cos'è, quando i denti tu li lasci andare o te li curi, la carie è maledetta e fa danno. Eh sì. Poi peggiora la situazione, si può danneggiare addirittura anche l'osso. Senza dubbio, ciò fa cadere il dente proprio. Caffa, oggi è un mezzo zucco, mi ha già fatto ricubazione, mamma mia, sempre finiti di là. Cosa hai avuto? Io qua, ma? Senta, macchina, per la macchina? Una bicicletta. Ah, e allora adesso è tutto poco, eh? 37 euro. A che lo conosci un burro, mi dici? No, avevi preso un bel. Mamma mia, mi viene un po' quel riabbiocco. Sai che vi lascio, che domani mattina mi alzo a residenza d'oro, dai. Buonanotte ragazzi, un abbraccio a tutti e due. Avanti Luca. Sì, sì, vai ragione, vai, dai. Ciao Franco, dai. Beh, altro chiudo pure io perché mi sono da stamattina presto. Sono un stracco volevo. Ti stacca di due, non fai nulla, poi nulla che non ho fatto. Già sono andato da una parte, sono andato dall'altra, mi sono mosso oggi. E niente, dai, ci sentiamo domani, altro buonanotte a chi sta ascoltando, ciao anche a Giovanna, buonanotte, ciao a tutti. E capo, c'è anche Giovanna, se rientra, saluta, ma tu. Capo, dai, ci sentiamo, ci sentiamo da buonanotte. Giovanna, ci sei? Bisogna ci mandi la cazzofra con gli addanto la sovramodulano. Ammazzali. Vai buffo, vai cosa, ciò. Aspetta, barriggiamente lo bucravo, barriggiamente, non ti guardi in campagna. Ciao. Quando chiamano i cinghiali, me. Oh, buonasera, Acra. Aspetta, qua c'è qualcosa che non va. Ora. Aspetta un attimo. Guarda qua. Vai, mangia la cazzofa, tu, vai. Franco, ci sei? Buonanotte a tutti, dai, che io mi ritiro. Ciao, che sono il Dracco. Ciao. Ciao, Antonio Brusci. Capo, ma vuoi fare qualche prova, no? No. Sto mettendo a posto qua e basta. Capo, dai, ci sentiamo. Capo, sono un po' Dracco oggi, ho fatto migliaia di cose. E via, là. Ah, è giunta l'ora di rifugiarmi. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Genau, Frau Achter.